Ah, con sono ancora vivo, quando sono vivo mi piace la cosa, me la compra tu, non so neanche pensarci due volte. Chiappa, fai bene, fai. No, che invece tocca stare con i piedi di piombo. È un casino. Ma io mi sono aumentato. Dopo il comparato, non era sveglio tutto aumentato. Sentimi tu, l'olio d'oliva, con la bottiglia che c'è ormai con l'anello, il vetro, che sono 750 centilitri, addirittura costava 6,90, adesso costa 9 euro. Ma io sono matti. Cazzo, ma 9 euro me lo piglio in occhi. Anch'io, però preso fatti da questo riconosco io, giù a Budimuni, lo fa lui, e di Cirolito, ma so che olio d'oliva non è misciato con queste matrici. Ho visto qualcosa che fa vedere su internet, olio di semi, mettono la clorofilla, mettono quello, quell'altro, pronto, sembra olio d'oliva, invece non lo è, vai vai. Bisogna andare a quello fidato e lo compri a 10 euro. Cioè, capirà a comprarlo. Ma infatti non conviene più comprare, compri produzione locale. Lo paghi uguale, lo paghi. Sì, perché se poi ci conti, non è vero nello spì, non sai che olio è dentro, capito? E non hai neanche un litro, tu paghi un litro di giro, ecco, viene. Io compro sempre quei 20-30 litri, me lo conservo, c'ho già le bottiglie in vetro da 5 litri in uno, quindi ogni volta vado con le 6 bottiglie, faccio 30 litri e ciccia. Piano piano mi dura tutto l'anno, anche l'altro, ma che non so poco di oliva. Quando faccio un po' il sughetto, capito, concludo il suo minestrone, ma è olio d'oliva, olio d'oliva proprio. Ma appunto, conviene prendere produttori locali e basta. Io ma te sì, voglio fare così, perché Catabrava sta pagando quanto lo pago in occhi. No, ma non esiste proprio, non può esistere. Cioè, facciamo lavorare i produttori locali e desiderano si ammazzano. Troppo sono esagerati, dai. Vogliamo fare soldi dalla montezza, la massa di rivaria. Ma io sono anni che non compro le d'oliva. Qualche volta quando dici da sole, prendo. Qualche volta, perché io cucinavo l'olio d'oliva, quindi non frigo neanche con l'olio perché io ho una friggitrice d'aria, quindi è una cosa, faccio le patate e una fine del mondo, quella così buona, c'è quella da 10 litri, quella grande proprio. Break! Avanti il break! Sì, dai, buonasera a tutti! A 10 è lui, a 10, anche i produttori lo stanno andando così. Ciao Gianni, lo so, anch'io l'ho comprato a 10. Tanto male che me lo biglietti in occhi. Sì, infatti. Vabbè, il negozio qualche cosa come 8 euro lo trovi, 8 euro e qualcosa, dai. Però è sempre, non si sa mai come è fatto. Ho fatto vedere, lo dicevi, ci mettono la clorofilla per colorarlo, ci mettono quell'altro, già. Sembra uno di oliva, poi in realtà è bucaria. Infatti, molti lo camuffano, ma da sapore te ne accorgi. Quello che prendo io è anche troppo forte, mi piglia la gola da quanto è forte. No, io lo prendo qua da Angelo, alla Budimuti alla fine proprio me lo danno. E dirò che io prendo il verdone, ma così buono già. Un altro ho messo poi per il pane pagnotto, mi ha fatto una fetta, un filo di olio, un po' di sale, ci ho sfamato un pezzo di pomodoro, ma dirò la fine del mondo. Ci credo, se l'olio è buono non c'è bisogno manco di mettere aceto la insalata perché c'è il sapore dell'olio. Scappa. Allora, tu. Antonio, sei sposato. Antonio si è perso, deve essere col bambino sicuramente, perché deve guardare il bambino se ce l'ha lì. Scappa, ma non sono accetto anch'io infatti. Come di propagazione, tutte le FM. Ma dove? Germania? Ma Zucchero non si occupo. Sempre le luci. Questo che non l'Italia tra le luci, ha già amato, e poi sempre le luci. Chiamo sempre attenzione Italia, è più della luce. Anche qua c'è la propagazione, non la senti tu? Sì, ma là era in FM, era più forte il segnale, capito? Ho capito. E vabbè. Ma l'altro giorno lo stesso c'erano gli spagnoli che arrivavano a bomba. A volte fanno finta di non sentire. Mi hai detto, Santiago 7. Ma non c'è una propagazione a San Paolo. Attento, attento, mio hermano, devo ascoltare la Sardinia, delante per un comprimido. Ma te la metti? Ma sto facendo il mio ex con una persona e poi sei incazzato. Tu cosa, non ho capito un capo, era ridente. Perché mi ha detto la linea. Guarda, anche la persona sta a fare i nubi, ha detto che era la Spagna, mentre lui si è incazzato. E si è fatto mettere la pera. Questo è un capoluccio che sta entrando tutti i canali. Purtroppo. Ma tu col bambino? Sì, sono col bambino stasera. Me l'ho immaginato, perché ti abbiamo chiamato e non hai risposto, sei sicuramente col bambino. Sì, sono andato a guardarlo, si è dormito, se. Davvero? Allora è stanco dall'asilo. Ma lo avevo portato che è stato male, è stato. Però avanno. Non ha fatto più nulla, c'era vomiti e si avvicina adesso. Ma c'era il sassizzone che l'ha fatto male? No, negativo. Mi hanno mandato una cosa, va. Capo, avanti tu. Capo. Niente, io sono comunque messo il ventilatore che ti ho portato. Ieri sera stavo così bene, sto venticino che c'era sotto la veranda. E adesso per prendere l'abito deve scendersi la plattamona, farci un giro, pigliarci un gelato e così va bene, ti prendi un po' d'aria. E martedì arriviamo in cielo che è a 31 o 33 gradi, non fa del genere. C'è qualcuno che sta chiamando, c'è. No, è propagazione. Ma gente da fuori. Capo, se ci sentono già ci chiamano, c'è problema. Sì, capo, gli è entrato, cosa, capo, Daniele, da Itile. Io. L'ho sentito che c'ero anch'io. E si è trasferito, se ci ha mandato macchina, non c'ha più fuori strada, ha cambiato, ha dato una svolta alla sua vita. Beh, già so tutto. Un attimino che mi sforzo, che mi devo rinfrescare 2 minuti. Kappa. Ah, mi ha battato. Bene, si sente il microfono. È il suo, mi già. Non mica l'ho cambiato. A me va bene col suo, va bene. Ma è lineare che ti sta facendo uscire forte, perché ti aumenta la radio. Ah, no. Infatti no. Io gioco di zero. A me 747 mi aumentava la radio. Mi diceva, piccata, ti ha aumentato la radio del 25%. Prova a vedere adesso. Oh, com'è? Un po' più basso, è più potente con linea attaccata. Così è più forte, è vero? Sì, a me sembra di sì. Vabbè. Da poca potenza, non ti credi che dia chissà cosa, no? Ma con lineare è potente, scusa, se ne attacchi lineare. Quando attacco rugoso, bomba a voce. Quando attacco il... come si chiama? Il BV131, quello spinge forte. E non ce l'hai più? No, perché? Se voglio l'attacco lo faccio scaldare. E chi lo tocca quello? Altro, dimmi una cosa, alternata sì. Negativo. Non me lo sta più facendo l'alternata? No. Come ti ribiglia? Cappa, è certo, è chi lo dà il BV131. Chi su bomba vero già? Quello è un signor amplificatore, a dirà che tutti le cose, no, non è così, no. Sì, a me. Entra, ciao. Che io cambio radio. Io ho preso un commento, ma domani devo fare una scorta. Mi sono mangiato solo 5, ragazzi. Cappa, stanotte faccio pasta asciutta in bianco. No, la pasta asciutta l'ho mangiata oggi con ragù buona. Oggi ho mangiato il riso, io a Gabriele gliel'ho fatto in bianco e io me lo sono fatto, c'era il sugo, me lo sono fatto in rosso per non buttarlo via. Ho fatto un bel ragù l'altro giorno, via. E già è tutto buono, cavolo. Niente, la sera sto preso leggerissimo, inizio la mattina e boh. Quindi, guarda che è una mela. A mezzogiorno c'è l'una, faccio mangiare proprio l'una e un quarto, l'una e mezza, già, capito? Dipende che non rientro a casa e poi devo uscire, insomma. Ma Gianni, sei ancora qua? Sì, non è che ti sei spostato. No, ha cambiato il radio, così lo faccio girare tutto il tempo. Come va questa? Sì, cosa? Cosa? Troppo ripompante, mi hai sbagliato. Sì, bella forte già. Forte, sai che la radio che serve per fare DX, infatti si chiama 2000DX. Cappa, guarda adesso se va meglio, l'ha abbassato la radio. Adesso va bene. Che radio è? È il Cobra 2000DX. All'incirca com'è questo? Cosa? La figura com'è all'incirca, com'è questo? No, tutta un'altra ministra, tutta un'altra ministra. E dici che sia più bello colore, mandami la foto, è bello il Cobra. Adesso ho il telefono in carica, tu vai e guardalo, guarda Cobra 2000DX. Aspetta che lo guardo. C'è un'altra strada, subito cazzarmi dal letto che sono sdraiato. Se non vado a riuscire adesso me ne sono sdraiato che stavo facendo sino adesso e sono stanco. E io sono entrato poco fa, ho fatto un bacchetto elettrico, e poi adesso mi rifresco un po', mi sono preso un cornetto e domani devo fare adesso di nuovo il carico. Io sono 5, sono rimasti i 15 gatti, Ma io sei razza vecchia, Cosa tu? È razza vecchia come apparecchio. Razza vecchia, e c'è concetto VAT, razza vecchia. Qua mi dà un altro tipo di Cobra a me. Questo lo sai quanto costa? Costa 800 euro. Ma quella stazione è base? Ma è grande, però non è base, dai. Che come può essere, che ti posso dire, Lafayette, ce l'ho presente. Lafayette, iPhone, eccetera, eccetera. La grandezza è quella. Ho capito. Questo da 30 watt in AM, FM e 100 watt in banda laterale. Ma cos'è digitale? No, non è digitale, è tutta analogica. K. Però puoi abbassare il watt, capito? Poi se io per dire ritorno, guarda, questo è più basso come watt. Così diciamo la potenza più alta. KK, no, già è buono già. Grillo. Questo per fare DX è un bombo. Sembra me lo posso immaginare già. Ah, pure questo è in gamba, Ma è tutta l'altra categoria quello lì. Questo qui è, diciamo, categoria A, quello lì sarà C, ecco la categoria. Praticamente è un baracchietto il tuo, quello, questo che c'ho io è un baracchio di cosa media. Non lo posso immaginare. E se? Lafayette 2004 FM. Cosa tu? Lafayette 2004 FM. Questo c'ha tutto, c'ha banda laterale, c'è FM, c'ha tutte le bande. È un apparecchio completo, dai. Lo sto vendendo, se interessa qualcuno, lo sanno, 450 euro. Io sto vendendo il mio, c'è il canale del Galaxy, uguale identico. Se bande, AM, FM, CV doppio, SSB. Tu che apparecchio c'hai? Ma è mio. E se te l'ho appena detto, Lafayette 2400 FM. E con quanti watt esce? Ma mi ricordo se era 15 watt esce. E allora non è uguale. Questo c'è con 100 watt, dottorino. No, è quello, parchinetto così, hai capito? Cioè, se c'è più o meno come il Galaxy, né più né meno, come canale, come tutto. Quindi, niente, lo so, non è più come il telecanale, già tanto come mai nessuno usa, o duriamo sempre da 10, e basta un paracchino sopra la peppa. Cosa per il prossimo? Questo qui ce l'avevo anche Gian Maria uguale, me l'ha detto lui. Poi l'ha dato, se l'è pentito, perché è un bel baracchino, non lo uso mai, l'ho acceso per scaldare un po', ma non lo uso mai, lo uso di raro, perché è troppo bello questo apparecchio. Sì, perché quando non utilizzi i baracchini poi si rovina, allora bisogna attendere. Io mentre che mai sono acceso, però con l'antennino è a volume zero, solo mi innesca, mi guardo io alzo volume. Cioè, il volume è troppo alto, ti maschi le parole, non riesco a capire certe cose, sinceramente, tu non lo so gli altri, però io non riesco a capire certe parole perché è troppo alto e si masticano le parole. No, si masticano, sono io che parlo veloce, aspetta un po'. Te l'ho passato un altro po', va bene, io sono distante un 50 centimetri dall'interno. telefono già. Adesso va bene, adesso di lusso. Poi fammi di commenti una macchinetta, starti appresso il casino. Avanti a Dugno. Bisogna attaccarsi il turbo. Quindi stavo guardando quel ristorante, la parolaccia, le risate. Ho capito. Che su internet stavo guardando quel ristorante che chiamo la parolaccia a Roma. C'era la pisciarsi dalle risate. Sì, lo so, io quando ho pensato a Roma dovrei fare, volevo andarci poi. Non mi ricordo se si trova la Stefano, dove cavolo si trova, boh. Quello è. No, io non lo so dove è esattamente, però l'ho visto su internet e fa pisciare. E questa qui l'ha detto, zitta, ti do un calcio nella... E uno gli ha detto, se non lo dai lì, non ti esce più la scarpa. Adesso la parolaccia si trova all'indirizzo vicolo del 5, 3, 153 Roma NF. Vico, che pizza, tutto mi ha detto io. Vico del 5. E c'è, che quartiere è? Basta cercarlo su Google e lo dice dove. Aspetta, la parolaccia si è chiuso, vabbè. Vedi, il ristorante, la parolaccia a Roma, e ti dice dove è la zona. Dice la zona, però non dice la... il quartiere, capito? Genio, la parolaccia, essendo una zona piena di zona, subito per me, le persone hanno chiesto anche quanto costa il pranzo la parolaccia, esce a vedere. Dai, dici 12 euro, che è una cazzata. Oh, non te lo dice? Dai, dici 12 euro a pranzo, la parolaccia, è poco. Bisogna saperlo, magari qualcuno di Roma già lo sa. Perché Roma è Manami, non è così, no. È divisa a quartieri che sono grandi, enormi. Ecco, la parolaccia del Ciccio farsi offendere in romanesco può. Sì, sono così. Ecco qua, si aveva ragione Gianni. La zona Trastevere a Roma, al civico 3, vicolo D5. Trastevere? Gamba. Quello lì. Non ti devi offendere perché le dico di tutti quelli, sono entrati tre ragazzette, mi sono entrate le balle. Poi ci vuoi andare, guarda. Io non so se a Ferragosto l'ho scappata per la faccia. Se sei per Maoso, meglio che non valli. Oh, fammi domare pure io. Oh, yeah, un domani. Però c'è da ridere, va. A questo qua gli ha detto, se non cantate in compagnia tutti i maschi, li rimane dritto per una settimana. E la moglie gli ha detto, non cantare. Dice, signora, si può immaginare, secondo me andare a pisciare, andare col coso dritto se... E la verità a me, l'avevi risposto a tono. Sì, comincia a pulire i culi piccolo. Fa troppo ridere, va. Bisogna essere di spirito, però, perché se uno si offende, se la bilucci, se per dire se con la contramoglio, con l'altra ragazza le dicono a bada, cosa ti rimane con la ruvola, boh. Ma se vai, stai già andando in un posto che sai che è così, io andrei con un amico, o solo con un amico, capito, a Grefa, no, di certo vado con la mia compagna, assolutamente. Ma la gente fa la beffa lo stesso. Non ti credi anche se faccio che non ti faccio la beffa. L'ha detto tutto di gloria uno. Ci ha detto froccio. Già mi dico uno io. Noi siamo a giugno, lui d'agosto, pensami. In prima di Ferragosto o dopo Ferragosto faccio una giretta, cara. Aspetta, se lo trovo te lo. Niente la propagazione, cara. Già mi stai chiamando? Eia. Sono andato a girare la pasta, sono andato a... Fra un po' mangiamo. Così presa tu? Sì. Ti faccio mangiare il bambino, capito? Ecco la scusa, mangi anche tu, dai, ho capito. Scappa, c'è il sugo con le polpette, me lo pongo in mezzo io. E poi mi mangio... Allora lui gliela faccio in bianco, perché era un po' caretto. Io se mangio le 8:39 perché poco fa ci sono gelato un cornetto qui e infatti ho visto che nel pizza ce ne sono solo 5, allora domani mi faccio il carico di nuovo, dai. Gappa gappa. n'è andato via, se n'è. No, ha detto un attimino che mi voleva mandare una sorpresa cosa della parolaccia. Ah, capito. Sì, si trova a Roma, a Trastevere, la zona, e vicolo numero 3, vicolo via 5, sono vicolo 5, può fare il genere. Ma scusi che mi sta chiamando mia cognata. Ok. Beh, muscici. No, io te l'ho mandato già, il coso della parolaccia, la foto, No, io l'ho cercato, il coso non l'ho trovato, perché te lo, ti dà cose diverse, vai a vederlo un attimo e lo vedi una cosa, dopo, dopo 5 minuti ne vedi un'altra, non ti dà mai le stesse cose. No, qua c'è proprio l'ingresso, ho centinato, cincio la parolaccia, c'è proprio l'ingresso del ristorante. Quando ci deve andare allora? Se vado per l'agosto, mica vado prima, così mi metto in ferie un po' di giorni, dai. Mi c'è sempre un figlio. Vabbè, ma sono figli più riposati, nel senso che non devo fare né tramacchine né niente già. Ehi, ehi, se mai deve essere una figata a casa. A me l'ha fatto crepare le risate, ci sono altri tutti colui. Bianco per me, non vado a preparare da mangiare per il piccolo. Per me. Ok, ci sentiamo. A me per il culo. A me va bene che tu me ne frega, piglio per il culo anch'io. Se me ne affutta. Non penso che ci lo prendano loro, perché tanto. Lo prendono loro, devo prendere anch'io, mica se non ci sono, neanche ci vado allora, scusa. No, loro solo ti possono canzoncinare. Ti fanno le canzoni. Ahia, devo farli tutti i culi, sono in due, ma si mettono col microfono sopra la sedia, ui, rimanere a me fare il massone. Tu che sei laggiù, non ti nascondere, forse. Devo fare il bianco perché devo mangiare, cioè devo fare da mangiare al piccolo e a me. Ok, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Anto, ciao, buona carica, dai, quando la fa un bacione a Gabriele. Ciao Anto, un bacione al piccolo, ci sentiamo, ciao, stai bene. Ciao ciao. Sei il sumaco. Questo qui è l'allarme del coso, ce l'avevo anch'io quello lì. Come si chiama? Dell'LPD e CVR, come ti diciamo? PMR. Ma io ce l'ho sia quello portatile che anche quello che ho preso da Gio Maria, ho preso. Si attacca a 12 volte direttamente, c'è microfono, tutto cambiato, quei numeri, meno lì. Allora mi rivedo pulissimo, non è passato nulla, non è mai nessuno. Io l'ho regalato. A me, no, questo qua mi ha dato un leoncino, me l'aveva venduto, quello portatile, 20 euro, è bella, ci vediamo. Sì, se mi ha comprato questa così buona va su internet, costano poco quegli apparecchi. Sono buoni, quindi Baufeng sono buoni e costano poco. Sì, ma il problema che ho io non costa poco, infatti le do in coppia io, no, capito? Tutte e due 70 euro, cioè il portatile quello per casa. Che marca è? Allora, questo è proprio PMR, aspetta, non lo faccio. Fammi vedere qua. Ah, già lo si dice. Sta scritto in un modo che non si vede un placchetto. E qua tu riesci a vedere questo che c'ho. Questo è scritto GYT. È bello, eh? E c'è anche un bel po' di vacuolo lì. Cos'è? VU? Mi sembra, sì. C'è anche FM addirittura, quello lì. Addirittura c'è la pellicola in plastica di spray, penso un po'. E quando lo accendo diventa tutto blu, e la scritta bianca. Le cariche, sì. Ho capito, Sì, ne fanno diversi, ma i buffer, ne dico, costano poco. Li complico un pochino. Costano poco e sono buoni, vanno bene. Io con l'antenna in interna parlavo con i punti tranquillamente da casa, con Giulio, con l'antennino di GoPro. Sì, ma c'ho anche l'antennino proprio, la mini Graffini, capito, che forse modo è con questi qua, aveva regalato Emanuele, aveva regalato. Quindi, tutto completo, l'antenna, il portatile, quello lì, 70 euro, è regalato per prezzo, è giusto, dai, lui. Ho comprato 80 euro, la Federica. attacco in gas adesso, tu di secondo solo che attacco l'altro, eh? Sì, via. Tutto fischi, sei uscito. Mi sono dimenticato la poi che acceso tu. Eh beh, hai innescato, è ovvio. E più mi, se io alzo il volume. È un casino che ha fatto appetto a volume zero. No, non è perché mi sono dimenticato la tua apparecchio acceso. C'avevo un altro acceso, l'ho dimenticato acceso e quindi ha fischiato. Caffa. Andrà bene, vera. E domani giovedì, domani fischiami, oh già. Cos'è festa? Per me sì, domani c'è Monicuzza. Ah, non ti stavo capendo. No, pensavo ci fosse festa a Sassari. No, festa la faccio in casa, la faccio. Oh, yeah. Ha detto che lei vuole la verdura grigliata, le piace. La pizza non è a voglia con questo caldo, ma adesso va bene. La verdura grigliata. Ma io non ero direttamente a corsa, pizzicotto 2 a corsa, capito? Puoi fare del ritiro. Ma solo la verdura? Cosa? Ritiri solo la verdura grigliata solo. Prendo una vita sola, la roba in casa poi, capito? Non è che cioè, mangiamo solo verdure grigliate. Quello è per il contorno, secondo, un secondo. Che prima li fai il risultato di mare? Ma prima non so, poi vediamo. Ho anche una bella pasta a forno in frizzer, però no, Gianni. La notte bisogna dare dei giri a letto, se no casino. Io potrò trovare la notte, no, la sorpresa. E allora mangio per due grigliate e basta. Sì, ma poi un casino, ti viene il risotto, se mangio bene, e quindi non ce la fai più, non viene giù. E poi c'è l'età. Ma cosa l'età? Fin quando funziona la pizza è tranquillo. L'età nel senso che ti addormenti, no? Tante volte io mi accorgo, prima resistevo fino alle 2, 2 e mezza, adesso se guardo la televisione mi trovo subito. Ma hai visto stamattina il messaggio che l'ho mandato? Alle 4.49 mi sono detto, ma tu oggi non trovi la notte, che televisione mi chi? Quando apri gli occhi, io mi sono svegliato alle 4, mi sono guardato la televisione, non mi veniva sotto, allora perché mi sono andato a mandare messaggi? No, non ci ho fatto caso, tu ho visto che l'hai mandato, ma non ci ho fatto caso dell'orario, è la verità. Ma tu sei sempre di Surano, alle 6, ma... Eia. Se non cambiare il punto, ho detto, così. Ho visto la buonanotte alle 3 del mattino, alle 3 mezzo il buongiorno, ma insomma non hai dormito? Per carità. Quando insomma riposi bene quelle 3-4 ore a volte ti basta, capito? Non è più sonno. Allora ti pensi di inventare qualche cosa, e vabbè. Sant'Antonio, e poi nel pomeriggio non mi sono neanche coricato. Perché alle 6, no, 5 e mezzo, 5 e 20, sono andato a prendere mia figlia, accompagnarla, a tirarsi la torta. E festeggio con le amiche, e quindi ho detto cosa mi riposo a fare, poi mi drogo, mi ripeso alle 6 e mezzo, alle 7, no, non mi conviene più, non sono rimasto sempre sveglio. Poi ho fatto un lavoretto, ho finito il lavoretto, ho fatto quello che dovevo fare, ho mia figlia e poi sono andato a casa direttamente. Poco fa mi sono mangiato un cornetto, visto ce ne sono 5, troppo, basta, domani le compro. Io me ne piglio misti, capito? Quello alla marena, poi quello con di panna, poi quello con la cioccolato. Tutti erano lì dove le prendo già. Sono giganti, un cornetto così, se non prendo il mare non ti bastano 3 euro. Tony, già fuori il batting. Dopo ogni tanto, la mattina o pomeriggio, quando sono in casa, ho uno schiappellotto me lo mangio, capito? Può fare lo stesso, me lo so mangiare. Già, quando c'è caldo non c'è cosa fare, mi faccio che c'è mia, vedo che passa, invece me lo mangio. Ma dove vai a prendere? Al quadrato? Non ho capito. Al quadrato li prendi, di Piazzale sì. No, quello da Lido che c'è qua, a Piazza Valchiero, quello c'è all'angolo. Tu pensa quei cornetti grandi al cioccolato 85 centesimi. Cazzo, me li mi sono sempre detto, dici. Quelli al cuore di panna costa un po' di meno, 75 centesimi, e sono giganti, miccia. Poi per io quello con il riso soffiato, che è il cioccolato dentro, la marina dentro, il pomiglio corretto, quello che c'è coso, alla marina. Poi quel tipo mi prende il bagno, insomma, non l'ho visto. L'ho preso l'altra volta, ho preso così, ma non ne compro più, non mi piace. no, non mi piace a me. A me non mi piace il cocco. Molta gente è appassionata del cocco, a me non piace. A me il cocco piace moltissimo. Io nelle scuole prendevo il cioccolato al cocco, il Mountain, che se poco era uno. E poi se trovo il gelato me lo prendo al cocco, al pistacchio. Prendo anche i gomiti al pistacchio io. Oppure prendo quel gelato tipo Magno al pistacchio. E io ho fatto dei dolci. Questa amica mia mi ha dato la ricetta per fare questi dolci col cocco sopra. Il dolce era buono, ma il cocco un po' più, non riesco a ingoiarlo, mi fa più di taragosto. No, il gelato è tutto bello frantumato, è sciolto, capito, è buono, è frullato, quindi è buono. No, a me piace moltissimo il cocco, cavolo, non c'è altra cosa del cocco. A parte il cocco mi piace anche il mango, infatti ho preso dei ghiaccioli, non proprio ghiaccioli, i sorbetti, che è tutto frutta, al mango, ma così buono, tu dici me la c'ho mangiato io, eh. E poi così ingordo, ma quanti ti sa la glicemia? 1,50 massimo, perché io mangio quando sono a digiuno, capito? Mi mangio più la glicemia, vabbè, 98, allora mangio un cornetto, un gelato, non c'è problema. Sto attento, è sempre controllata la glicemia già, non è che fosse rifiniato, cioè glicemiato e mangio un gelato, no, assolutamente. Ah, poi invece, a pranzo mi sono mangiato due etti di ciliegie, quelle grosse grosse, che buone. E a quanto le pagate le ciliegie? Allora, mezzo chilo c'è la sua confezione siccitata, 3,99. Cazzo, un meccanico. Guarda che da Mura, vicino a casa, ci sono in offerta e praticamente costano 3,99 il chilo. Ma poi era mezzo chilo, 3,99. Sì, ma quelle grandi grandi ho già, ma non quelle piccole no. Vabbè, grandi o piccoli, interessante c'è lo dolce, a me non mi interessa che siano grandi, mi interessa che se quelli di Verona sono ben buoni, sembra così, però a noi ci portavano quelli di Verona, sono croccanti, grosse grosse e dolci. Ma tu comprate li hai? No, devo andare, perché c'è anche la birra in offerta, 99 centesimi il litro. Mica non ne puoi mangiare ciliegie, mica c'hai diabete. E tu chi non le mangiate, che mamma la gaglia tua, tu puoi dire di guru dall'aria. Già, io dico questo, e perché mi devo togliere cosa che mi viene la voglia, dico oggi mi gioco domani, no, la vera forza non abbassa già tutto, ovviamente mi controllo la glicemia, dai, grazie a Dio, andavo sempre bene. Ma se ti cambia la sua, ragazzi, cioè, tu lo sai che ti fanno male, ogni tanto puoi mangiare queste cose, ma non sempre, tu rimani un neadì gelati, io vedi, adesso puoi dire, non ho mangiato una maschetta da 500 grammi, però poi sto settimane che non ne mangio, capito? E io ho preso la Guregavina che la posso mangiare, a metà l'ho mangiata, poi ho comprato un meloncino che è durato una dica, che tra lo mezz'ora e la notte tutto è uscito, quella regione che è buona dentro, Che cose buone non le possiamo mangiare, te lo batti chissù che è buono, non vuoi mangiare. Non sei l'ultima, il mio diabetologo è andato in pensione a marzo, mi devo chiamare, non mi ha chiamato, se no che ieri sono andato a Rezzetto e sono andato dalla tipa, così. Cosa non fa? Dice deve fare impegnativa, chiede la cupa, eccetera, eccetera. Sì, e va, mi si manda l'altro anno. A me, a settembre, fa 3 mesi, mi scade il foglio, e chi me lo fa? Dice, scusi la cosa, se lei non trova niente, che la rimanda, eccetera. Infatti, ho trovato la cupa e non vedo nulla. Comunque, dopo lo dico cosa devo fare. Niente, mi ha detto, venga qua, le rinnovo il foglio l'altro anno, non si preoccupi per quello. Non rimane senza le pastiglie, non si preoccupi. E quindi niente, io ho detto una cosa, l'ho chiesto per San Camillo, c'ho già l'altro, mi chiama dottoressa, domani mattina faccio prima una scappata a San Camillo, cerco la dottoressa, gli spiego tutta la faccenda, perché è più vicino a casa mia, capito, già, a me andare zitto un po' meno per i cazzoli. Dice di raggiungere la diabetologa, sono andato in ferie a fine marzo, cioè l'ho vista il 25 marzo, mi sono andato in pensione prima, cioè non è finita. E funziona solo quello, vabbè, pazienza, io sono senza diabetologo. Però mi rinnovo le foglie, non c'è problema. Sì, ma non è solo il foglio, ti devono anche far fare le visite, farti fare gli esami, cioè non è solo rinnovarti il foglio, tu dici, quello è. cazzarola. Non sai cos'è che ha fatto, sicuramente ci aveva delle fili arretrate e si era attaccate alle giornate che gli mancavano per andarci in pensione, così non c'è più tornato, capito? E si è andata così, però mi ha spiegato anche di arrizzito tutto, guarda, signora veramente in gamba, mi ha detto non si preoccupi, quando lì va con questa dottoressa che è tutto ok, quella di San Camillo, basta che mette il nome suo sul computer e ha tutto quanto quello del dottor Francino che c'aveva lì, e sa tutto a fronte la cosa sua. Giustamente ha detto sì, ho ancora le ricette che mi ha fatto lui per fare le visite, prendere il sangue, eccetera, eccetera. E me le farà fare di non poi la roba dottoressa. Comunque vediamo, ovviamente ti dico che farà 10 giorni prima di andare da loro, capito, di ritirare la legge eccetera. Comunque vabbè, aspetto, dai, adesso domani io provo adesso a camminare a cercare la dottoressa, e anche il giovane mi ha detto che è in gamba, poi bisogna vedere. Sì, chi mi ha detto, anche l'Antonino mi ha detto che si ha capito, sono bravi quindi. E poi anche non consumo benzina già, che è andata a pensare in chimica casino nel sito. Il mio c'ha 63 anni, ancora ne ha a prendere in pensione. Allora, tua faccia lui, grandetto, c'ha anche pensione a marzo, vabbè, grandetto, sono più grande io, c'ho 3 anni, sono in pensione, ma comunque, doveva farmi la vista a me, se non sei andato via prima, vabbè, comunque. Non c'è problema, comunque, ok. Domani faccio questo salto qua, diciamo, sono dottoressa, io che le trovo tutti, e comunque mi risponde sempre picche, sempre picche, sto sempre telefonando ogni giorno, mi prenderei in considerazione direttamente, fa la vista, guarda il computer, e così sono più tranquillo. Penso che non può fare, c'è bisogno che il cupo deve prendere appuntamento, perché è lì che mette gli appuntamenti, infatti cosa che non è voluto mettere, quindi... solitamente funziona così, c'è il CUP che ti dà tutto lui, devi chiamare lì e loro ti danno il dottore, non è che te lo scegli tu, no, ma almeno fosse così, anche io non avrei preso a San Camillo, fosse prima. No, no, no, me l'ho detto che non posso prendere a San Camillo, mi ha detto lì zitto, un carro, lo già, mi ha detto a me che mi costa, ha detto mi è sempre qua, sempre qua, mi ha detto a San Camillo ci ha mandato un'essa solo, dice che è brava, non c'è problema. Lì quando chiama il CUP indica questo nome dell'autoressa, ce l'ho scritto infatti dentro, e si può prendere la prenotazione. Allora, se quando questa dottoressa non mette che ha tempo, posto libero per fare le visite, eccetera, infatti quando dice, oh, si è dimenticata, pure una gana, punì, io vado di persona e ciccia, faccio tutto, io mi devo rifare tutto quanto domani mattina. E vai al più presto, perché poi se non ne hanno più, non ti bidare più, fai il prima possibile. Ehi, a capo, domani mattina spesso ci vado. Io per le 8 ore tuo passo già lì, sono due passi, e quindi un mezzo e mezzo sono già arrivato. E infatti a te ti conviene lì. Ti conviene sia per il parcheggio, sia per tutto. L'altro giorno tu lì c'era, quando sono andato io, stava decollando l'elicottero, cazzo, gli ho fatto tutto il filmato, da quando è partito a quando si è sollevato in alto, tutto quanto. Poi stavo, ero arroiato, stavo facendo pulizia al telefono, stavo togliendo tutte le immagini, sono buttato due rivedere il filmato. Cazzo, non ho cancellato anche l'elicottero, cazzo. Ma stai parlando praticamente del corso dietro l'Ipsi, c'è l'eliporto? Sì, quello che c'è lì, c'è l'eliporto dell'elicottero 118, no? Sì, quello già lo so. Ma se l'hai cancellato, lo ritrovi sul cestino, ma già, te lo recuperi. No, ho fatto la pulizia dal telefono proprio, capito? Aspettata allora. Vabbè, deve capitare di nuovo che sia di nuovo un elicottero e ti rifai il primino. Ma sai quanto l'avevo fatto bene, ho fatto il pilota salendo, quando ha rullato, quello che ha fatto è accelerato, no? Quando ha rullato, e poi quando si è alzato in alto, piano piano poi mi è venuto proprio in testa, l'ho ripreso proprio da sotto. Ecco, ma se tu invece facevi una bella cosa, lo inviavi a qualche duno, amico tuo, eccetera, ti rimaneva, non ce l'avevi, diciamo, nella galleria, ma ce l'avevi di messaggi, e poi eri tutto tranquillo. Sì, Tony, a saperlo che l'avrei fatto questo casino, cioè non me ne sono accorto, stavo cancellando tutto, ho cliccato su tutto quanto, senza ricordarmi che ho fatto quel filmato, capito? Ecco, vabbè, dai, già si recupera tutto. Mi si era fornito una panina, era la pagliante. Io ho la scorta comunque, vado stamattina a cambiarla. Cazzo, era ma un cazzo, la pagina è tua. E così i contatti erano lucidissimi già. E siccome c'è la classica duro, si citate dentro dei capicotta eccetera, ho tagliato, ho messo il filo nuovo, 12 per uno separato, ho fatto tutto l'impianto, a forza ho avuto la paglia dritta, si funziona a forza. Avevi fatto tu? Sì, sì. E allora risparmiato, perché non la padina è cucciare una macchinina, non ti credi cucciare in bocca? Ma io ce l'ho a cassette, l'avevo pagato mi sembra 1,50 e me l'avevo preso 5, quindi. Ma sai quanto ho pagato la lampadina degli abbaglianti della cosa, della Open Station Vega? Dove l'ho fatto, l'ho pagato? 12 euro. Che cavolo! Tu pensa che tempo fa l'elettrauto fa pulire la lampadina a cassette più la mano voleva 15 euro, ti fa una cosa, rimani di sì, ciao, preso che è andato. Salato, l'ho comprata e me la sono messa. E me l'hai tolto figlia così e figlia quant'altro? Sai, io ma sono la padina che devi pagare il pongo. Mi dice, ma non ho parlato di niente, la padina 5 euro, non fa pagare, che la cosa è 5 euro. Ma io ce l'ho scorta come sono tranquillo, non mi frega niente. Quindi, ne ho messo solo una sola, quindi, grazie a Dio, mi ha ancora 4. Le H7. Quelle abbaglianti sono le più fuzzi. Ma no, ma non ho niente neanche una. Ce l'ho anni. Ma comunque mi sono fatto sempre, mi faceva l'interdio, ho trovato dentro l'auto, mi contavo, poi era, minimo 30 euro, vai vai. Ma quelle che c'è sono anche se non chissà che tu gusti. No, se no non le pago molto comunque. E poi va bene già, che lo so, il 7 o 4. Niente, oggi mangio ogni salatina, mi puoi dimostrare da dentro, dentro, cicci. Anche proprio per non aggiungare, ma l'auto mezzo rompimi, perché ho congelato e mi ha saziato già. Quindi io mangio un po' che gelati, staccando le mani, le mangio. Sì, mangia gelati, mangia. E lui! E beh, cico mi, mi, chi sta parlando? Mi sta il salsiccione? Ah, già gelato, non puoi decidere più si va, lui. Sì, sì, mi sta il baghetta, mi c'ho ancora quel filmato, mi. Grazie, buongiorno, io sento a mangiare baghette, lui, ah. Non so neanche come hai fatto più la baghetta. Già, tu ci credi? Io so che da Rossi Minenzani, di chi si cosa che ci sono le fotografie, quindi. Aspetta che io c'ho il video, glielo mando a Sagiane, fammelo cercare, glielo mando. Della baghetta tua, Manuele. Sì, cattivola di questa baghetta, cagata. Cagata? Cazzo, quei tre mesi di baghetta la uso che io. Vado a dieta, Manuele, che d'estate devo andare al mare. Però, ma... Cazzo, io ho di baghetta 30 kg, eh. Oh, vivo. Sì, già. Ma come fai a dimagrire? Ecco, se c'è la bagna, si sa. Ah, ho preso questo frullato giapponese. Ho dimagrito 30 kg in un mese. Ui, non vi credo. Quanto l'hai pagato questo frullato? 60 euro. Guarda su internet, frullato giapponese sembra... sembra cosa? Sembra pesto. Pesto frullato sembra. E che siamo arrivati? È buono, è buono. Sto prendendo quello una volta al giorno, la notte. Cioè non cini e prendi quello per la sostituzione del pasto? No, no, mangi lo stesso, dopo cena. Quando vado a dormire lo prendi. Chissà cosa vedrei. Gianni, tu credi quello che diceva lui? Se tu lo vedi è il dubbio. Ma 30 kg in un mese non ci credo manco per le palle. Io ne ho preso 50 ma in un anno. Ma tu lo sai perché Manuel si è fatto crescere la barba? Perché se no non è che è il doppio mento, no, c'è il triplo mento. Ci vedi nei barri. Ah, io dimagrito, vai. Vai, ti do un altro, ma non a noi. Lasciatelo in pace a Manuel, lasciati rubare, che travaglia e ha bisogno di tenersi in piedi. A chi lo sa, se non è pieno non sta in piedi. Oh, sono cercato la foto che mi ha mandato il video, ma niente, la baghetta, forse era le parti vicino al mare, non so se era fatta una torretta che si zona e tu. Siccome c'ho molte foto, sto sognando piano piano, fino a c'è fatta. Cazzo che ha di effetto il gibbolo. Tempo suo, Emanuele. Anzi, a martedì arriveremo a 31-33 gradi. Cazzo, mamma mia. Quell'ufficio, cazzo, c'è un callo che si crepa, cazzo. Ma dove siamo? Entrando dove sono le sbarre? c'è Busia, che fa Busia. Ma è vero che non sei più a Fiumessante, stavo pensando a Fiumessante. Ah, lì ero l'anno scorso. Adesso sì, a cosa? A Pianda. A cosa? A Trucco Reale. A Trucco Reale, ho capito. Ma non lo so io dove Busia, cioè sto sapendo dove era prima il caparone di Busia a Predanile, poi non ho più capito dove è andato. Busia è per andare sulla strada di Poco Torres. A Ciugavino. Ma passando da dove? Tu puoi passare anche dalla Budivudi, puoi passare dalla. Ma dalla Budivudi, da. Da Lipurdi e fai la strada dove c'è Movili. Ho capito. Entri lì e vai per Filighito, sempre dritto, dove, per andare dove c'è la casa di coso, di come si chiama? Già capito Torino. Ho capito dove là. Almeno ho capito. Sì. Sono troppo per quella zona. Passi, fa lo sai dove? Sì. Qua è sempre in fondo verso le campagne, dove c'è per andare alla cuca, a Gruca. Ah sì sì, ho capito. Però non vai sotto il ponte, vai sempre lì e ti portare che vedi quei due bomboloni grandi di gas. Kappa. Sì, Trucco Reale è quello. Aspetta che stanno chiamando, avanti chi chiama Gianni. Sì.